incidono soltanto due album. Il primo si intitola Independence, proprio perché fa riferimento alla lotta e alla successiva indipendenza del Mocambico, e il secondo è intitolato Marrabenta Picnic. Solo due album incisi, proprio perché lo spirito, lo scopo principale dell'orchestra Marrabenta Star in Mozambique era proporre i propri pezzi direttamente alla radio nazionale e anche durante le tournée nel paese, in particolare a Maputo, ma anche, diciamo, anche nei paesi, nelle province più lontane del Mozambico. Chiaramente l'orchestra Marrabenta Star di Mozambique focalizzava la propria musica sulla marrabenta, ma proponeva anche brani con altri stili musicali, e appunto il primo brano che vi facciamo ascoltare non è di marrabenta, è un pezzo che abbiamo già proposto nella versione live cantata da Mingus durante durante un festival che celebrava l'anniversario dell'indipendenza di Mozambico. Ve lo riproviamo nella versione in studio, quella diciamo incisa su vinile, e il pezzo si intitola Avasafi Galomo. Mezzo secolo di canzoni africane registrate tra il 1920 e il 1970, ma inaccessibili, tornano in vita con un progetto Beating Earth che sostiene le comunità subsahariane. Un archivio di oltre 35.000 canzoni africane, registrate appunto tra il 1920 e il 1970 dall'etnomusicologo britannico Hugh Tracy, da oggi è finalmente accessibile. Il progetto Beating Earth, nato per preservare la musica africana per le future generazioni, ha reso disponibili le antiche registrazioni a produttori e DJ di tutto il mondo per realizzare una serie di album in chiave contemporanea a scopo benefico. Per valorizzare l'eredità musicale del continente africano, l'organizzazione Beating Earth ha scoperchiato il tesoro sonoro di tradizioni secolari custodito per 50 anni dall'International Library of Music of African Music, l'archivio fondato nel 1954 dallo stesso Hugh Tracy. Nel 1921 l'allora 18enne Tracy partì dall'Inghilterra per lavorare nelle piantagioni di tabacco del fratello vicino Kivu nello Zimbabwe e farsi una vita nell'Africa coloniale. Presto però la sua passione per la musica africana lo portò su una strada completamente diversa, che percorse poi per tutta la vita. Ammaliato dalla cultura africana e dalle sue sonorità così ritmiche e percussive, Tracy iniziò a viaggiare, a incidere, collezionare e catalogare tutta la musica delle popolazioni dell'Africa subsahariana. Gran parte delle registrazioni sono state fatte negli anni 50, ma quasi tutte le persone che hanno suonato e contribuito alle canzoni sono decedute. La loro musica non è mai stata sentita prima e nessuno la conosce. Quindi un modo per tramandare la loro cultura tradizionale, ma anche per rendere quanto ricevuto. I proventi degli album sono destinati interamente ai villaggi e alle comunità indigene in cui vennero incise le canzoni originali. La vendita di sole 1500 copie aiuterebbe a sfamare per sempre una scuola di 500 bambini. E appunto la marrabenta è il principale ritmo musicale del Mozambico, è proprio l'identità dal punto di vista musicale di questa nazione. È un ritmo urbano, o se non altro dovuto a persone che sono urbanizzate, lontane dall'ambiente sociale e culturale, e è soggetto a un'influenza anche di altri paesi. La marrabenta ha cominciato, diciamo, a essere conosciuta, ad espandersi alla fine degli anni 30, ma è solo a metà degli anni 50 che diventa popolare e incorpora diversi ritmi. È quindi un prodotto di un meticciato culturale del popolo che sta nel sud del Mozambico. E quindi proprio per questo motivo era proibita da parte dei colonizzatori portoghesi. La parola stessa deriva comunque da un verbo portoghese che significa arrebentare, che significa rompere. Alcuni dicono che questo si riferisce agli strumenti usati per suonare la musica, originariamente la chitarra di stagno e scatole di legno con archi. Altri invece, si pensa che questa sia l'interpretazione più consona, fa riferimento allo stile del ballo, perché tra l'altro la marrabenta è uno stile musicale, ma anche è uno di ballo, è un tipo di ballo, un ballo vivace, saltellante e con un atteggiamento chi lo fa, che si danza fino a quando non si rompe, fino a quando non cade. E quindi è proprio, come ho detto prima, è proprio l'identità di Mozambico, è un significato, tra l'altro marrabenta, che oramai ha trasceso da quello che è l'origine del nome. Il fatto di fondare, di fare proprio un'orchestra che si intitola Orchestra Marrabenta, significa dare ancora più risalto a questa cultura popolare che il popolo mozambicano voleva portare avanti e voleva continuare, con cui voleva continuare a potersi esprimere sia da un punto di vista musicale che da un punto di vista della danza negli anni post dell'indipendenza. Anche perché i creatori e i suonatori del marrabenta erano persone, uomini e donne, sia uomini che donne, appunto normali, cioè del popolo, e che veniva cantata sia per strada che prima e durante le riunioni, che precludevano, diciamo, a decisioni da parte delle situazioni in lotta. Vi facciamo ascoltare un altro pezzo, sempre appunto da parte dell'Orchestra Marrabenta Star di Mozambique, in questo caso è tratto dall'LP appunto Independence, e si intitola Elisa Gomara Zaya. Ricordiamo che siete all'ascolto di Radio Wombat su wombat.noblogs.org e la potete ascoltare anche in AM, quindi alla radio, sul 1359. Sui social per seguirci abbiamo Twitter, che è twitter.com/radiowombatfi. La posta per comunicare con noi, posta wombat@insiberia.net. Vi ricordo che Uru, abbiamo anche noi un profilo Twitter che è uru-rw. Se volete continuare a seguire le notizie sull'Africa o così, potete guardare ogni tanto sul nostro profilo Twitter. E vi ricordo anche che dal sito wombat.noblogs.org potete accedere al menu podcast e ascoltare tutte le trasmissioni della radio in differita. E c'è anche un 68 africano, sono 50 anni da questa rivolta, poi successivamente si è trasformata in una continua lotta per l'affermazione dei propri diritti, per l'affermazione di una migliore qualità della vita. E appunto c'è anche un 68 africano, in particolare Marocco e Senegal. Ed è curioso di come i due paesi hanno affrontato, diciamo, questo cinquantenario in una forma diversa ma collegabile. Il Marocco come emarginazione e il Senegal un tentativo di recupero. Il Marocco quest'anno, appunto, per il cinquantenario del 68 è stato parlato molto più sul ruolo che i marocchini hanno avuto negli eventi del maggio 68 in Francia, piuttosto sugli eventi che si sono succeduti in Marocco nello stesso anno. È vero che per 68 in Marocco non va assolutamente considerata la cronologia che si è susseguita, appunto, dal punto di vista dei fatti, si è susseguita nella ex potenza coloniale francese. Ma è anche vero che il 68 in Marocco inizia, si vuol dire, nel 65 con i tumulti a Casablanca, che segnano appunto l'inizio di un periodo di 10 anni di profonde lotte, di continue lotte nel Marocco, E tra l'altro c'è anche da sottolineare l'uccisione del sindacalista Mary Bembacca, che si presume sia stata, anzi è una certezza, anche se ancora non sono state delineate le responsabilità personali, diciamo, è una certezza che la scomparsa di Mary Bembacca è frutto della collaborazione tra l'intelligence francese e marocchina. Il 68 appunto in Marocco si fa iniziare con i tutti per Casablanca, il 65, e raggiunge il suo apice tra il 69 e il 71, quando appunto la creazione del Partito della Liberazione del Socialismo nel 68 e la successiva repressione attuata su questo partito e sul suo leader Ali Yata portano a scioperi nel marzo del 69. Eppure nella stampa marocchina non c'è traccia. Sembra che questo 68 in Marocco, appunto, con tutte le lotte si è portato dietro, non sia neppure successo. In contrasto con questo silenzio del paese maghrebino, l'approccio del Senegal alla sua rivolta del 68, di cui tra l'altro abbiamo parlato anche in una puntata precedente di Uru, appunto il Senegal si tenta un recupero, e quindi non l'ignorare quello che è successo in quel periodo, ma un tentativo di riportarlo, di ricondurlo nella logica di uno scontro fra due visioni politiche, però tutto situato all'interno dell'alveo istituzionale. Si parla addirittura di un diritto alla memoria, un'espressione normalmente in Senegal e più in generale nei paesi di quell'area lì, dell'area del Golfo di Guinea, è riservata ad eventi più importanti come l'Olocausto o il commercio di schiavi transatlantico. Ricordiamo anche il 68 in Senegal, oltre alle proteste degli studenti, è stato anche un movimento che ha portato anche una severa crisi alla presenza di Leopold Senghor, il padre dell'indipendenza senegalese, ma che col passare del tempo si era sempre più distaccato da quelle che erano le richieste popolari. E accanto all'emarginazione e il recupero, tra l'altro, le classi dominanti africane sono sempre state interessate chiaramente a ostacolare l'effetto domino delle insurrezioni sociali, e quindi va tenuto presente anche che il 68 non fu soltanto Marocco e Senegal per quanto riguarda l'Africa, ma anche in altri territori, in altre regioni, in particolare in Congo, ma anche in Egitto, in Etiopia, in Kenya, in Tanzania e in Tunisia, senza considerare appunto il Sudafrica, in cui chiaramente gli echi, diciamo, della lotta, gli echi arrivavano da parte della lotta in Europa, andavano direttamente ad alimentare quella che era, diciamo, una lotta di lunga durata, e cioè la lotta contro l'apartheid. E torniamo alla musica con un nuovo pezzo dell'orchestra Star Marrabenta Star de Mozambique. Ascoltiamo Veneu Nga Yale. a proposito di Marocco, l'11 ottobre scorso GADEM, gruppo marocchino antirazzista di difesa e di accompagnamento degli stranieri e dei migranti, ha presentato a Rabat, il nuovo rapporto Espulsione Libere, in cui sono state raccolte testimonianze di arresti e allontanamenti forzati subiti da persone non marocchine che l'organizzazione aveva già denunciato con la pubblicazione del precedente report Costi e Lesioni, rapporto sulle operazioni di applicazione della legge nel Marocco settentrionale tra luglio e settembre 2018. GADEM accusa le autorità marocchine di aver arrestato, respinto e deportato nella sola regione di Tangeri, nell'estremo nord del paese, almeno 7.720 persone non marocchine, indipendentemente dal loro status legale e in modo del tutto illegale, tra luglio e settembre di quest'anno. Solo tra luglio e settembre 7.720 persone. Secondo l'organizzazione, 89 persone di diverse nazionalità, di cui 6 minori, sono state rimpatriate e molte rimangono per mesi in cella in attesa di conoscere la loro sorte. Emblematico è il caso della stazione centrale di polizia di Tangeri che, a detta della GADEM, detiene attualmente in stato di arresto almeno 40 stranieri. Camille Denis, coordinatore generale dell'ONG, ha dichiarato che gli arrestati vivono in condizioni disumane, dormendo su materassi per terra, senza coperte e con ancora gli abiti che indossavano quando sono arrivati in stazione, praticamente senza bagni, e ci sono persone malate a cui non viene offerta alcuna cura. È un altro pezzo, chiaramente sempre l'orchestra Marraventa Star de Mozambique, Zapateiro. Shaka laza tu. bianco, bianco, qua un miso, una foda, una foda, chigut, chigut, chigut, chigut, chigut, chigut, chigut, chigut, chigut, prossimo è sempre un pezzo dell'orchestra Maraventa Star di Mozambique, in cui a differenza dei precedenti il cantante solista è Wazimbo Humberto Carlos Benfica, all'anagrafe, nato alla fine degli anni 40, considerato appunto una delle più grandi voci del Mozambico e uno, chiaramente uno dei più famosi cantanti di Maraventa. È nato nella provincia di Gaza, Mozambico, una provincia appunto del Mozambico meridionale, dove appunto si è sviluppata la Maraventa, e poi si è trasferito nella capitale, dove è cresciuto e ha iniziato a suonare nel popolare quartiere di Mafalala, un quartiere appunto popolare dove si è sviluppata la Maraventa urbana. Ha iniziato a cantare come membro del gruppo Silver Star, poi Chiese, e successivamente si è unito appunto all'orchestra Maraventa Star di Mozambique. Il pezzo è Nawalwana, che ha scritto direttamente lui e che appunto parla di questa meravigliosa giovane donna, si chiama appunto Maria, e Nawalwana significa uccello, un uccello notturno. Outra pele así aquí mutimo cuerro. Relele, si saco fama, así coloco de pele, así aquí mutimo cuerro. Maria Antônia me puta até com a mani moquejo. Maria Antônia me puta até com a mani moquejo. Se que o co conta ma para loco de pele, puta te com a mani mo urana. Drilele, se o co conta ma para loco de pele, puta te com a mani mo urana. Antônia me puta até com a mani mo urana. Yeah, yeah, yeah, yeah. Yo, Maria Antônia me puta até com a mani mo urana. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Akunene mashaka na zebra. Torniamo su un argomento che avevamo già, di cui avevamo già parlato in una precedente trasmissione, e cioè i migranti. Nel 2017 ben 19,4 milioni sono stati gli africani emigrati all'interno dello stesso continente. I 78,8 degli immigrati che si trovano in Africa sono africani, vale a dire 4 su 5, ed è l'Africa occidentale a registrare la maggiore migrazione a livello interno. Inoltre 5,5 milioni sono le persone arrivate in Africa da altri continenti. Tanto per dare un termine di confronto, nello stesso anno in Europa, e sono dati dell'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, sono arrivati 186.768 migranti, 3.116 invece sono i morti nel Mediterraneo o dispersi. Quindi 5,5 milioni sono le persone arrivate in Africa da altri continenti, 186.700 invece sono quelli arrivati in Europa. Nel 2017 si sono contati 258 milioni di migranti a livello globale. I primi 5 paesi con il maggior numero di migranti interni in Africa sono Sudafrica, Costa d'Avorio, Uganda, Nigeria, Etiopia, tutti con oltre 1 milione di migranti nel solo 2017. Si tratta di una mobilità interna cresciuta nel corso degli anni e che genera una serie di benefici sociali, economici e anche politici. Infatti, diversi rapporti sull'Africa mostrano come le migrazioni contribuiscano alle trasformazioni strutturali dei paesi in meglio, a differenza delle politiche di respingimento. Contrariamente alla percezione generale provocata principalmente dalla stampa e da tanti slogan, la migrazione dai territori subsahariani si svolge essenzialmente entro i paesi del continente. Inoltre, l'umanità è sempre stata caratterizzata da migrazioni. L'Africa stessa è composta per la maggior parte da etnie che sono nomadi o seminomadi, pastori in cerca di migliori pascoli, contadini in cerca di terra fertile per l'accesso alle risorse, acqua, legna per cucinare e costruire case e villaggi. Le nuove frontiere naturalmente hanno molto attenuato, ma non fermato, queste migrazioni. State sempre all'ascolto di Uru, la rubrica Radio Wombat, che tratta appunto dei suoni e notizie del continente africano, e appunto la state ascoltando e la ascolterete su Radio Wombat, in streaming wombat.noblogs.org e anche in AM 1359 nelle zone in cui riusciamo ad arrivare, comunque tutte a Firenze e nelle vicinanze, nei territori limitrofi. Un altro pezzo dell'orchestra Marabenta Stade Mozambique, il pezzo si intitola Vala. Na wena shingomele anga bosha silika ivele mama vula vula ikufamba akusala nikatanza vuya Blewa nanyana anga bosha silika ivele mama vula vula ikufamba akusala nikatanza vuya Chiusura di trasmissione dedicata all'Orchestra Marraventa Star di Mozambique e a quella che è la forma, l'espressione sonora più caratterizza il Mozambico. Non possiamo non ricordare Josina Machel. Non c'è nessun anniversario né di nascita né di morte, ma ci piace ricordare questa donna, questa giovane donna deceduta all'età di 25 anni, che tanto ha dato alla lotta per l'indipendenza del Mozambico e anche e soprattutto alla lotta per l'emancipazione delle donne mozambicane, e che al di fuori del suo paese non è particolarmente conosciuta. Ma se andate in Mozambico, se qualcuno va in Mozambico, troverà e va in alcune case, anche nei villaggi più sperduti in Mozambico, molto spesso trova il suo manifesto, la sua foto. Josina Machel già dall'età di 14 anni inizia una serie di fughe, molto spesso stoppate alla frontiera oppure direttamente dalle forze di polizia, dalle forze di repressione coloniali portoghesi, fino a che all'età di 20 anni riesce a raggiungere quello era il quartier generale del Frelimo, situato in Tanzania, e da lì inizia la sua lotta appunto per l'indipendenza del suo paese e per l'emancipazione delle donne mozambicane. Fin da subito inizia a portare avanti questi progetti che diciamo rompono le tradizioni, le norme culturali africane cristallizzate fino a quel momento, e insieme alla costruzione di questi progetti è anche una donna combattente. Gli viene diagnosticata una grave malattia proprio quando è in una zona impervia del Mozambico, e quindi con tutte le difficoltà a trasportarla in un ospedale. In questo caso gli ospedali che potevano curarla erano situati a migliaia di chilometri di distanza in Tanzania, e quindi viene trasportata in ospedale a Dar es Salaam, in cui arriva debole e sottonutrita, tant'è che ha viaggiato appunto per più di 2000 miglia dal posto in cui si trovava fino ad arrivare a questo ospedale. L'ultima sua azione è di consegnare la propria pistola a uno degli accompagnatori, dicendogli appunto che serve per continuare a portare avanti la lotta armata per la liberazione del Mozambico. Josina Machel. Ed era tutto per questa puntata, ci risentiamo la settimana prossima. Vi ricordiamo che potete ascoltare, se avete perso una parte di questa trasmissione, potete ascoltarla in replica la domenica alle 23 o il lunedì alle 8:30 la mattina. Ci risentiamo la prossima settimana, cioè venerdì alle 21:30. Ciao a tutte e tutte, alla prossima. Ciao ciao. Sia ciao latina, sia ciao latina, sia ciao latina, sia ciao latina, oh Ethiopia, oh Uganda, oh Kenya, oh Tanzania. Helele mama, helele mama. Oh, Kana. Helele mama, helele mama. Oh, Nigeria. Helele mama, helele mama. Siya chabu latina. Helele, helele, helele mama. Siya chabu latina. Helele mama, helele mama. Siya chabu latina. Helele, helele, helele mama. Siya chabu latina. Helele mama, helele mama.